Ho buttato l'ultimo pezzo di cono, che non mangio mai, e che butto da quando il cono me lo compro io e non i miei genitori. Ho tirato fuori le chiavi della mia Vespa e salendoci ho capito che no, la Vespa non l'avrei più venduta. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16, 6 minuti, quasi 7 minuti. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Quando ho fatto l'università ho studiato la pubblicità. Io li ho fatti. Io li ho firmati. C'erano diversi corsi che parlavano di pubblicità. Si chiamano più o meno tutti nello stesso modo. Tecniche pubblicitarie 1, tecniche pubblicitarie 2, sociologia della pubblicità, la pubblicità teoria prassi e altri che adesso non sto qui a elencarvi. La prima cosa che mi dissero quando entrai in un corso di sociologia dei consumi, per l'esattezza, fu questa frase qua. La pubblicità non serve a vendere un prodotto, la pubblicità serve a creare propensione al consumo. Ci pensai tutta la lezione. E poi in metro, mentre andavo in stazione. Ci pensai in treno. Quando tornai a casa ne parlai alla mia fidanzata dell'epoca per cercare di sbrogliare questa matassa. Eppure c'era qualcosa che mi sfuggiva. Nel senso che mi sembrava una presa in giro. Poi ho fatto altri esami che parlavano di quella cosa lì, della pubblicità. Ho visto come tutti, milioni di spot, cartelloni, pagine di quotidiani e di riviste piene di immagini e di claim che altro non è che il testo principale dell'annuncio, quello che un tempo si chiamava slogan. Alcuni orribili, altri divertenti, altri ancora che rimarranno impressi per sempre nella nostra testa. Tutti però con quella frase, la presentazione, o come dice la definizione esatta, la promessa principale fatta al consumatore. Il claim, lo slogan. Che morbida, è nuova, no? Oggi mi piacerebbe parlare proprio di quello, di slogan, dei vostri slogan però. Come se fosse una specie di campagna pubblicitaria in cui il prodotto da promuovere siete voi. Come se in un'unica frase doveste raccontarvi chi siete o che cosa siete. In una frase, uno slogan. Ecco, io sono qui. Magica. Una bionda per la e nessuno li distrugge. Ma un grande pennello. Bionda per la vita. Non ci vuole un pennello grande, ma un... Uno slogan è una frase memorabile e intesa per essere facilmente memorizzabile. È usata in un contesto politico o commerciale come espressione ripetitiva di un'idea o di un proposito. Grazie a Viola per avermi stampato questa definizione. Slogan, però, questa è la definizione più politica. Quella dello slogan pubblicitario è: lo slogan pubblicitario è una breve frase capace di esprimere un concetto in modo efficace e sintetico, il che la rende particolarmente adatta alla propaganda o alla pubblicità. Secondo molti, però, l'uso più appropriato del termine si ha quando lo slogan viene utilizzato per identificare una frase associata al marchio generale, che non è specifica di un singolo messaggio o di una campagna pubblicitaria, ma assume un significato più generale e si estende a tutta la comunicazione di quella marca lì, tipo cose buone del mondo. 800240024 349 238 6666. Si parla di slogan, dei vostri slogan, non ne avrete pronti, ma basta che ci pensiate 5 secondi. Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello, cinghiale. Paola, ad esempio. No, non cominciamo con Paola. L'altra Paola. Non sono io che esagero, è il resto del mondo che si trattiene. Ecco, una roba tipo questa. Ci pensate un attimo, una cosa che... è un altro modo per provare a dire io sono qui. Una frase che racconti qualcosa di voi, come in uno slogan. Monica, sempre a testa alta, così ti guardo negli occhi. Paola, non è il mio culo che è grosso, è il resto del mondo che è troppo piccolo. Gianfranco, homo faber sue quisque fortune, l'uomo è artefice del suo destino. Margherita, se la conosci non la eviti. Riccardo... ah, in inglese. Aspetta, però non riesco... ah, ok, don't judge a book by its cover. Non giudicare un libro dalla sua copertina. Nadej, una donna di nome... ah, no, un attimo. Però lo slogan deve essere comprensibile, ragazzi, perché se non lo capisci uno che lo legge, figurati uno che lo sente. Una donna di nome Speranza... ah, ok, perdonatemi, l'ho fatto copia ancora male. Una donna di nome Speranza, questo è il suo slogan. Anche perché Nadej in russo vuol dire proprio speranza. Però temo che non si pronunci così a questo punto. Paolino, secondo me tu ne sai meglio di me. 800240024 349 238 6666. Non ci vuole, veramente non ci vuole moltissimo. È un gioco che mi è venuto in mente perché ieri sono andato in giro per la città e vi racconterò meglio. E ho visto un sacco di slogan. La città è piena di slogan, ragazzi. Ovunque vi giro girate ci sono slogan, una frase, frase che non vogliono dire per lo più niente, però che in qualche modo raccontano qualcosa più o meno di quello che poi servirà per questa città. Think for yourself and fuck the rest. Piaccio più alle mamme che alle figlie, Giuseppe. Questa sembra una condanna più che un claim. Giulia, io sono come gli ovetti Kinder, una sorpresa continua. Fabio, guardate in tutte le direzioni. Margherita, non sono colta, sono corta. Vabbè, qualcosa di più però, mi aspetto da voi. Deborah, un po' di Hello Kitty e un po' di Tarantino. Questa non è per niente male. 800240024 349-238-6666. Se per caso all'ascolto c'è un pubblicitario, esistono ancora i pubblicitari, no? Giusto ieri sera io e Tiziano abbiamo avuto una cena molto piacevole con degli amici, e tra questi c'era una ragazza che faceva la pubblicitaria, e la battuta che è venuta, come al solito Tiziano fa sempre le solite battute, è stata: ma esistono ancora i pubblicitari? Proprio per questo, visto che esistono, abbiamo scoperto che esistono ancora anche nel 2011, se siete all'ascolto e avete voglia di raccontarci qual è l'ultimo claim che avete fatto, magari tipo mezz'ora fa, voi al copy lì nel vostro ufficetto, poi in realtà le agenzie pubblicitarie hanno sempre dei grandi open space meravigliosi con il cristallo, un po' come qui nella splendida sera del sole 24 ore, dove tra l'altro fuori ci sono 24 gradi, dentro ce ne sono 15 e l'abbassamento vocale è garantito. 800240024 valgono persone che fanno altro nella vita ma che hanno uno slogan pronto per loro, ma anche pubblicitari che ci raccontino l'ultimo slogan che hanno creato, che sia per un detersivo, che sia per una TV privata, che sia per politica, non si può perché siamo in campagna elettorale, e poi secondo me non i politici se li inventano loro, dai, sono, si vede che se li inventano loro. 800240024 oppure 349-238-6666. Perché gli slogan oggi? Per questo motivo qui. Un diamante è per sempre. Samir non c'è più da qualche giorno, ma a me è rimasta la voglia di andarmene in giro in moto, la mia moto nuova. La Vespa è lì in cortile, la dovrei vendere, però non riesco, non ancora. Sì che lo so che non ci si deve affezionare alle cose, figuriamoci. È solo che devo ancora farle le foto e poi metterla su un sito, e poi rispondere al telefono a quelli che chiamano dicendo: ho visto l'annuncio di una Vespa. Tu allora lì a dire: guarda, la Vespa è in perfette condizioni, praticamente nuova, è tenuta benissimo, l'ho usata solo nei weekend. Io non sono capace di fare il venditore. O meglio, non è che non sono capace, non lo so, magari sì, è che semplicemente non mi piace farlo. Cioè, che preferisco che uno se la venga a vedere, magari la provi, e se gli va bene se la compra. Cioè, penso che la roba è lì da vedere. Quindi mettermi a decantarne le lodi mi sembra che non abbia senso, visto che io sono fatalmente di parte. Tutte le volte in cui ho comprato qualcosa di usato ho sempre preso con le pinze le cose che il proprietario mi raccontava. Insomma, non ho voglia di fare la parte di quello che vende la qualità di una cosa che ho posseduto. Quindi semplicemente aspetto che mi arrivi la voglia. Ieri, appena finito il programma, sono uscito con l'intenzione di andare a fare un giro nella campagna sud di Milano, per non stare sempre in mezzo all'asfalto e ai palazzi. Sono salito sulla moto, l'ho accesa, ho fatto scaldare un po' il motore e sono partito. Sta moto ha un sacco di vibrazioni, quindi quasi non mi sono accorto che la tasca sinistra mi vibrava più della destra. Ci ho infilato la mano e ho preso il cellulare. Su DirPlay c'era un numero della provincia di Novara che non conoscevo, e ho fatto la cosa che di solito si fa in questi casi: ho spento la moto, ho schiacciato il tasto con la cornetta verde e ho detto pronto. Pronto, Matteo? Sì, chi parla? Sono Emiliano di Romentino, ti disturbo? Emiliano, ciao! No, non mi disturbi, come stai? Io bene, tu, ti ascolto sempre la radio, vai alla grandissima. Bah, sì, a momenti, più o meno. Ti chiamo perché so che sei una persona che tiene particolarmente il suo paese. Sì, a Romentino, sì. So che parli spesso di Romentino e di romentinese. Bah, insomma, sì, insomma, quando capita di parlarne, più o meno. Ma il paese ormai è allo sfacelo. Ah, sì? Sai che le persone che lo governano in questo momento non stanno facendo per niente bene. Bilancio, disastro. Sì. Strade in colabrodo, l'avrai visto quando torni. Sì. Asilo, rischia di chiudere. Ma mi spiace. Le aziende se ne stanno andando dal territorio perché nessuno offre delle opportunità, insomma. Matteo, il paese in qualche modo ha bisogno anche di te. Guarda, Emiliano, se mi dici così sembra che mi devi arruolare per una guerra, non so come posso... Ma sai, in qualche modo questa è una guerra, cioè una guerra che possiamo vincere però, anche grazie a te, grazie al tuo supporto e alle tue partecipazioni. Emiliano, senti, facciamo così, guarda, io starei ora a sentirti, però devo scappare, facciamo così, dimmi come posso aiutarti. Ma se semplicemente andando a votare scrivendo per esempio il mio nome sulla scheda. Ok, ho capito. Guarda, mi sa che ti devo deludere però, perché io ho la residenza a Milano e non voto romentino da anni ormai. Vabbè, dai. Peccato. Peccato, mi spiace, sì. Però mi ha fatto piacere sentirti. Anche a me, guarda, anche a me molto. Magari ci risentiamo. Sì, quando passo di qui ci vediamo. Dai, ok, dai. Quando passo magari ti do un colpo di e questo è il tuo numero, no? Sì, sì. Allora sì, magari ti faccio un colpo di telefono, ok? Vabbè, ciao Matteo. A presto, Emiliano. Comunque, Anche tu, anche tu. Ah, Emiliano, scusa un secondo. Sì, dimmi. Non è che per caso ti serve una Vespa? È nuova, in ottime condizioni. Just fight by. You get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. E dopo questa telefonata sono tornato a casa, ho riacceso la Vespa e sono andato in giro per Milano. Volevo mangiarmi un gelato e farmi quattro passi. Sono finito in Piazza Duomo. Da qualche mese il Duomo non è più coperto dalle impalcature che l'hanno coperto per diversi anni ed è proprio bello. La piazza però era piena di gente che guardava verso un palco. Qualcuno parlava dicendo cose che non sentivo perché io ero alle spalle delle casse acustiche e il suono correva dall'altra parte della piazza. Mi sono ricordato degli ultimi festeggiamenti in quella piazza. Gli scudetti, le Champions, la Champions, le bandiere dell'Inter, i giocatori che arrivano sull'autobus a due piani, quello City Sightseeing. Anche le persone che riempivano la piazza ieri avevano bandiere, sciarpe, striscioni, però non erano nerazzurri. Mi sono avvicinato, mi sono messo ad ascoltare per capire che cosa stessero dicendo dal palco. C'erano diverse persone in piedi, dietro a un piccolo pulpito in legno. Tutto intorno fiori e un megaschermo che proiettava immagini di facce sorridenti e bandiere italiane. Le persone sul palco parlavano. Dicevano cose che dovevano essere fatte, cose che erano state e non erano state fatte. Parlavano della città, dei milanesi, di quanto era importante essere milanesi, del valore di questa città in Italia e nel mondo. Parlavano del futuro dei nostri figli, di economia, ecologia, cultura, impresa, scuola, ospedali, sicurezza, circolazione, pensione e stipendi. Parlavano di quanto erano bravi loro e cattivi gli altri, di quanto loro facessero e gli altri parlassero, di chi sono gli altri e chi sono loro. Per un po' ho seguito i discorsi, poi con il mio cono gelato in mano me ne sono andato verso Piazza San Babila. Corso Vittorio Emanuele sembra un mercato senza le bancarelle, o meglio le bancarelle ci sono ma sono dietro le vetrine. La gente riempie totalmente la strada da parte a parte, andando in entrambe le direzioni, sempre. Solo che su entrambi i lati le vetrine erano coperte da pannelli di ferro su cui campeggiavano dei manifesti pieni di facce sorridenti, facce di uomini e di donne. Di donne eleganti e uomini coi baffi, con la cravatta. Tutti con l'espressione ammiccante di chissà che cosa vuole da te, anche se tu non saprai mai che cosa ne farà lui. Mentre camminavo, mangiavo il gelato e mi sono messo a leggere in sequenza le frasi sotto le loro facce. Frasi sibilline che dovrebbero essere le loro idee riassunte in uno slogan. Le frasi erano più o meno queste qui. La gioia dell'azione. È la nostra città quella che cambia. Dire, fare e votare. Gli occhi di Milano, la tua zona e la tua città, valori, idee e passione. Canta con noi, basta con la vecchia storia. Milano ancora Milano, e se questa volta cambiassimo? Poi sono arrivato alla fine, sono tornato indietro e me li sono riletti tutti. Li ho trovati divertenti e disarmanti allo stesso tempo. Ho buttato l'ultimo pezzo di cono che non mangio mai e che butto da quando il cono me lo compro io e non i miei genitori. Ho tirato fuori le chiavi della mia Vespa e salendoci ho capito che no, la Vespa non l'avrei più venduta. Zoppas li fa e nessuno li distrugge. 80024? Giusto? 0024, non l'avevo finito, ogni tanto mi fermo al primo 24. O 349-238-6666. Allora, mi aspettavo molto e molto è arrivato dai vostri slogan, anche se, però, in quanto slogan giustamente non è che può raccontarci tutto. Ci mette un barlume. The Master of Disaster, indietro mai neanche per la rincorsa, sperimenta, ne vale sempre la pena. Quando non c'è più niente da ridere, è il momento di ridere più forte. Leonardo, questa mi piace. You'll Never Walk Alone, me lo sono tatuato, Michele evidentemente è tifoso del Liverpool. Il mio slogan, non mi allaccio neanche lo scarpe senza un piano B. Umberto, un uomo in incertezza. Paolo, l'italiano più amato dalle cugine. Ma cosa vuol dire? Stefano, ti prego, scrivici cosa vuol dire, perché un po' mi terrorizza e un po' mi fa ridere. Dai miei colleghi al lavoro è nato questo slogan per definirmi. La super vecchina che spinge l'Harley. Aurora, 25 anni e ho un Harley. Non l'ho capita. Cioè, se hai 25 anni non sei una super vecchina, giusto? Se fai bene una cosa, da subito non devi rifarla. Questa non è male. Facciamo il bene se ci viene, e se non ci viene, pace. Marco, ma è arrivato uno che al momento è il mio preferito. Rudy, io non so se ci sono, ma se ci sono, ci sono. 800240024, andiamo a vedere chi c'è. Scusa Viola, arrivo subito. Andiamo da Fabrizia della provincia di Modena. Ciao Fabrizia. Ciao. Come stai? Bene, bene, grazie. Anch'io, dimmi, se mi dici e tu siamo... Il mio è... No, fa niente. Dai, dimmi qual è il tuo slogan, Fabrizia, dimmi. È nato in dialetto. Sì. Però dopo in italiano sarebbe anche facendo gamba l'occhio guarda. Dimmelo in dialetto però, Fabrizia, perché in italiano è anche sciapo. Anche facendo gamba l'occhio guarda. Che significa? È modenese? No, è veneto. Ah, perdonami. Sarebbe che è nato quando in una gita la gente lenta che camminava, dicevo, potete guardare anche se allungate la gamba, e comunque può essere collegato anche ad altre cose, tipo la vita. Puoi vedere, sì, sulla vita. Fabrizia, cosa fai nella vita tu? Gestisco un agriturismo. Benissimo, ok. E qual è lo slogan del tuo agriturismo? Non ce l'ha. Sì, ce l'ha. Viaggiare non è correre, ma fermarsi e osservare quello che vi dà. Ma è il contrario del tuo slogan. Lo so. Ma scusa, Fabrizia, ma non ho capito. Il tuo slogan è si può guardare anche andando e poi tu vendi le camere. No, no, come no? No, è così. Quando viaggi. Ti sei fregata, Fabrizia. Fabrizia, hai fatto la fine di tutti i pubblicitari che sono disperati e ti dicono: no, il mondo va a rotoli, però loro continuano a sostenere che sia tutto vendibile. Ma ti ringrazio lo stesso, Fabrizia. Buona giornata. Ciao, grazie. Ciao, andiamo ciao. A Napoli da Marco. Pronto, Marco? Ciao Matteo, buongiorno. Grande entusiasmo di Marco, qual è il tuo? anche stai? Troppo. Sai che io ho questo problema con gli entusiasti, però, che mi sento un pochettino travolto. Tu stai bene? Dai, allora mo faccio il triste, dai. No, che fai il triste? Cosa fai nella vita, Marco? Gestisco una discoteca, sono il direttore di una discoteca. Che si chiama? Pronto? Pronto? Sì, ti sento. Come si chiama la discoteca? Il Velvet? Lo posso dire? No, il Velvet è una bellissima discoteca di Napoli, però non è quella. Quello. Il Velvet fa gli after, noi facciamo le notti. Ok, come si chiama? Si chiama il City. City come città? Esatto. E qual è lo slogan di City? No, lo slogan di City non ce l'hai. Non c'è, no. Dobbiamo trovarlo allora uno slogan per City. Basta farli bere là e stanno a posto. No, certo, figurati, basta dargli tonnellate di alcol. Senti, il tuo slogan invece qual è? Invece Matteo, il mio slogan da sempre è stato 1+1=3. E non voglio sapere il perché. Marco, ti ringrazio, buona giornata. Grazie, ciao, in bocca al lupo. Ciao. Adesso la borsa, col solito entusiasmo di Marco, e poi io sono qui. Cari fratelli americani, da piccolo sognavo sempre di essere una palla da baseball. Ma stasera vi dico che dobbiamo andare avanti e non indietro. Un po' in alto, ma non in avanti. E soprattutto roteare verso la libertà. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Noi siamo qui. Io estoy aquí. Nella foto di oggi invece siamo su un'autostrada. Una foto è un po' storta, nel senso che l'autostrada si vede, la strada corre per traverso tutta la foto. È scattata da un'automobile in corsa, cioè in movimento. Il cielo è azzurro ed è scattata in questo periodo perché è quel colore lì, un po' della primavera. Però quello che campeggia nella fotografia, ed è il protagonista reale della foto, non sono i camion che si vedono in lontananza e non è nemmeno l'autostrada. È un cartellone che sovrasta tutta la strada con sopra scritto 45esimo parallelo. Antonio Tubia, 34 anni, da Poggio Renatico. Tornando da una trasferta di lavoro a Torino, ho passato questo confine geografico, il 45esimo parallelo, e mi sono sentito dentro ad un mappamondo. Sensazione bellissima. Caro Matteo, domani non lo so, ma oggi io sono qui. E allora siamo in due, Antonio. 800240024 349-238-6666. Lo slogan, il tuo slogan, lo slogan che racconta di te e che dice qualcosa della tua vita. Ricordo anche che se ci sono pubblicità all'ascolto sono subito ben accolti per raccontarci qual è l'ultimo slogan che hanno creato per un detersivo per i piatti, per uno shampoo. Mi vengono solo in mente prodotti, ma o per un divano anche. Invece quello di Andrea è Never Walk, Just Climb. Non cammina mai, semplicemente arrampica. Samuele, il peso dell'esperienza. Samuele da Modena. Questo ha proprio anche il nome. Samuele, il peso dell'esperienza. Mi sono fatto mio lo slogan di un cliente che dice: e allora che problema c'è? Lento ma inesorabile, Emanuele. L'italiano, ah, eccolo qua, c'è la spiegazione. L'italiano più amato dalle cugine, nel senso che essendo single spesso mi presentano cugine single. Stefano. Però a Stefano presentano solo le cugine. Qualche amica, no. Lui solo cugine e cugine di cugine. Alain, di fronte all'inevitabile, rilassati. Sempre dritto fino alla prossima curva, Claudio. Michele, fare bene solo le cose giuste. Alcuni però sono dei motti, attenzione, invece qua si parla di slogan. Il motto è tipo oddio, mi sto incistando. Il motto è, come dire, una visione della vita. Lo slogan è una micro presentazione, più o meno. Sono responsabile di quello che dico, non di quello che capisci tu, Marcello. Non siamo qui per commentare, Laura. Questa è buona. Presa in prestito dal moroso. Attenzione, se non sai, inventa. Io ora insegno al liceo e ai miei alunni non lo dico. Ciao Marina. Abbiamo però, prima di prendere tutti gli slogan, abbiamo trovato un pubblicitario, anzi credo un ex pubblicitario. Pronto Giuliano, da Brindisi. Eccomi. Ciao Giuliano, come stai? Matteo, sei splendido. Anche tu, io, Giuliano, sono non scherzi. Quelli degli slogan. Sì. E non dei claim. Cioè, spiegaci cosa significa, Giuliano, che sei un ex pubblicitario. Lo slogan e il claim l'hai spiegato benissimo. Si diceva slogan, poi si viene chiamato claim, poi ci sono le headlines. E tu hai spiegato tutto benissimo. In più, ti sei perduto come tanti di noi in una galleria a Milano, magari entrando nei negozi, eccetera. E la pubblicità è sempre stata una cosa importante. Ma tu, Giuliano, tu hai fatto il pubblicitario? No. direttore marketing communications, e quindi ufficio stampa, pubblicità e tutto. Ma senti, dimmi uno slogan, dai, della roba per cui lavoravi, che ti è rimasto impresso. Con noi si pulisce di più. Non è vero. Non è vero, Giuliano, dimmi che non è vero. Dimmi che non è vero. No, è vero, perché avevamo le prime spugnette con cui facevamo miliardi per pulire le pentole. Ma scusami, perdonami Giuliano, ma una cosa così basica, così elementare, con noi si pulisce di più. Sì. Cioè, veramente siamo convinti che funzioni oppure funziona perché semplicemente le spugnette sono... No, aspetta, erano esattamente 25 anni fa. Ah, ok. E tutto era molto più semplice. Ok. È tutto molto più complicato. Quindi oggi quale sarebbe lo slogan, Giuliano, di quelle spugnette? No, oggi lo slogan delle spugnette è il prezzo e come vengono proposte in un supermercato. Non c'è uno slogan di quelle spugnette lì? Mi sto deprimendo, povere spugnette, non, nemmeno una frase. No, sono ormai state approvate, sono state tutte comprate. Cioè non ne hanno bisogno, tu mi dici, Giuliano, non ne hanno più bisogno. Esatto. Va bene, Giuliano, senti, io c'ho un sacco di telefonate, quindi ti devo salutare, però dimmi uno slogan su di te, Giuliano. Lo ripeto, non ho niente da dimenticare perché ricordo sempre tutto. Grazie mille, buona giornata Giuliano. Grazie, in bocca al lupo. Matteo. Ciao, grazie. Andiamo a Como, da Maurizio. Pronto Maurizio? Ciao Matteo. Ciao, da dove, da Como chiami e dimmi qual è il tuo vicino slogan. Vicino a Cantù come zona. Vicino a Cantù, ok. Che cosa fai nella vita? Io sono una piccola ditta. Di che cosa? Tessuti di arredamento. E che slogan avete? Allora, no, il mio slogan era rivolto in questo momento molto particolare, sì, a ciò che è tutto ciò che riguarda la cultura. E allora io direi, a riguardo, ho chiuso una scuola, ma ho aperto una prigione. Sì, Maurizio, senti, spiega, non voglio sapere. Mi sembra molto attuale. Va bene, ti sembra molto attuale, ma io voglio sapere lo slogan della tua ditta, della tua azienda. Della mia azienda? Sì. Qualità. Va bene, Maurizio, ti ringrazio molto, buona giornata. Ciao, grazie. Grazie, andiamo anche tu, non scherzi proprio per niente. Andiamo in provincia di Venezia da Pietro. Pronto Pietro? Ciao Matteo. Ciao Pietro, che cosa fai nella vita? Io guido automobili. In che senso guidi automobili? Fai l'autista? Faccio l'autista. Ah, non il tassista. No, l'autista privato. Comunque complimenti per non aver venduto la Vespa, bravissimo. Va bene, ti ringrazio. Senti, quindi sei di quelli che va in giro con la macchina con NCC? No, niente NCC, io sono proprio per famiglia privata, di cui non posso fare nome ovviamente. Ah, tu lavori per una famiglia? Sì. Quindi sì, sei a disposizione completa 24 ore su 24? Parti, Pietro, c'è sempre e ovunque. Questo è il tuo slogan? Sì, questo è il mio slogan. Senti, ma tu quindi tipo vivi nella casa della famiglia, come funziona? No, non vivo a casa della famiglia, però comunque c'è un'azienda per la cui lavoriamo che fa capo alla famiglia, insomma, dai. Va bene, Pietro, ti ringrazio moltissimo, ricordiamolo, Pietro, sempre e comunque. L'ultima di oggi è Flavia. Pronto, Flavia? Eccomi qui, ciao. Ciao, senti, purtroppo devo fare veramente in fretta, quindi ti dico solo che cosa fai e il tuo slogan. Allora, io mi occupo di arte contemporanea, eventi culturali, comunque il mio slogan è vivi il qui e ora. Senti però, dimmi uno slogan che hai usato per un evento, l'ultimo che hai fatto. Allora, l'ultimo, ma guarda, per quanto riguarda l'arte, per me l'arte è ovunque. Cioè, l'arte, la bellezza dell'arte è ovunque, ogni benissimo cosa che guardi è un'arte. Quasi un po' induista. Flavia, ti ringrazio un molto e buona induista giornata. Anche a te. Ciao, Matteo, grazie. Ciao. L'ultimo di oggi è Letizia da Pisa, che ha chiamato ma non posso sentirla, molto di più di quel che appare. Ora però vi lascio, come sto facendo in tutti questi giorni, con un racconto che fa parte dei racconti che stanno arrivando e che leggerò e raccoglierò al Salone del Libro giovedì 12 maggio alle ore 16 in diretta. Un racconto che vi ho chiesto di mandarmi, si chiama Il racconto che vi racconta, questo è il racconto di Elisa. È stata la sola volta in vita mia in cui ricordo di aver pregato. E ho pregato per quasi 3 ore, con gli occhi incollati al cielo, oltre il finestrino, a fissare quella stella che mi sembrava più luminosa delle altre, quella che forse davvero poteva contenere un Dio creatore di tutto e quindi capace di tutto, perfino di sentire me, così piccola e così lontana. Per quasi 3 ore gli ho chiesto la stessa cosa, con la costanza e la fiducia cieca di cui solo un bambino è capace. Ti prego, fa che Pecorì stia bene. Pecorì era una pecora di peluche. Io avevo 8 anni e quel giorno l'avevo persa per sempre. Io credevo che non sarei mai stata capace di perdonarmi di averla dimenticata in quel letto. Peggio, credevo che sarebbe stata lei a non perdonarmi mai. Era bella Pecorì. Ce l'avevo fin dal giorno della mia nascita. Era un agnellino sdraiato con le zampine allargate verso i 4 punti cardinali. Aveva il muso tenerissimo. Era affettuosa e piatta. Potevo usarla come cuscino. Le intrecciavo le zampe anteriori e sembrava un esserino imbronciato. Se poi le intrecciavo anche quelle posteriori, assomigliava a toro seduto, faceva molto ridere. Veniva con me ovunque, anche in quel viaggio in Argentina. Quel giorno avevamo visto un'estanzia. Era pieno di cavalli, di cani, di pecore. Avevamo visto la tosatura e anche come tagliano la coda con la fiamma. Uno spettacolo orribile. La mattina dopo siamo partiti e io l'ho lasciata nel letto. Lo slogan di Ugo, vivo come tutti, sono come nessuno, ma lo slogan degli slogan, come ricordava Paolino Corleoni, è la passione. Si sente. Io sono qui, @radio24.it per i vostri racconti, il racconto che vi racconta, continuate a mandarlo. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi, dove siete?